Allora, siamo Cruciani e Parenzo, siamo due. Che cazzo sei? Siamo due signori, sì, che lavorano alla radio. Conosci le radio? Confindustria. Ho capito, tu sei quello che fa le. Chi lei conosce la Confindustria? La Zanzara, no? Bene, ottimo, ottimo. Oh, vedi, vedi che ci arriviamo alla fine. Con calma, con tranquillità. Eccoci qua, senza aggressività. Con calma. Conosci Alfredo Santamato? Mai cacato. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera, Peppe. Rispondo alle merde! Io con gli stronzi non ci parlo! Quello mi sarebbe da prendere a badilate! No, badilate! Ma no, sprangate! Ma scusa, ma è una cosa violenta questa roba qua! Scusa! Fatemi che cazzate se non hanno mettato le cose! Tu non sei un giornalista! Sei un somaro! Perché non hai preso paura! Somaro! Somaro! Somaro! Somaro! Somaro! Somaro! Sei fallito, perdente! Sei un fallito! Perché tu non puoi dire comandato o rivestirmi dopo due giorni con calma. Ma senza... stai zitto il cretino che non sa un cazzo. Aspetta, stai tranquillo, stai tranquillo. Voglio solo capire come si arriva da Monti Napolitano. Ma cosa vuoi capire tu? Allora... che sei un cazzo di cazzo, non puoi capire, non hai il cervello, ma la fai capire che sei un calmo cervello. Col cuore, calmo col cuore, calmo, lascialo crescere, lascialo crescere, non puoi finalmente capire. Imbecille. Sempre toni molto pacati in questa trasmissione. Sempre toni molto molto pacati. Molto pacati. Bravo, bravo. Bravo chi? Bravo, tu vai a fare questo inizio così scoppiato. No, ma devi ringraziare il signor Lacorte che sta qui. Signor Lacorte. Signor Lacorte. Ragazzi, il signor Vittorio Sgarbi pone una questione molto seria, come sai, come hai visto, come hai compulsato nonostante il tuo viaggio in terra senese. Anzi, dovremmo dare l'indirizzo di casa tua a Siena. No, no, no, no. L'indirizzo esatto di casa tua, no, a Siena. No, no, no, no. Sì. Con le coordinate esattamente anche geografiche. Se non ci fosse tua figlia, se tu non fossi lì con tua figlia, è una cosa che farei. Le coordinate. Sì, no, io ti dico subito che domani andrò, penso, in una spa, alle Terme. L'amico dei poveri, l'amico dei rom, domani passerà le giornate alle Terme in una spa a Siena. Sì. Sicuramente un posto molto molto ricco, un posto, no, un posto che costerà come minimo 30-40 euro solo l'ingresso, sicuramente roba con cui si spama, meno di quello non puoi spendere, altrimenti è una porcilaia, quindi... roba con cui si sfama un migrante al giorno, no, 35 ecco, euro un migrante al giorno. Ecco il demagogo, ecco rinuncia il demagogo. Domani ad andare alle Terme, non so dove, in quale albergo lussuoso lì a Siena, per dare i 35 euro, ma regalare fare entrambe le cose, non regalare una giornata di sostentamento a un migrante, come li chiami tu, a un migrante. Io li chiamo clandestini. Clandestini la cui come dire legittimità, veramente un cretino, però la cui legittimità a entrare nel suolo italiano, deve essere tutta verificata. Cioè quando un tizio si presenta sul suolo italiano, se un tizio si presenta a casa tu che cosa fai? Puoi entrare o non puoi entrare? Beh, non c'è nessuna correlazione però tra le terme. Beh, se qualcuno adesso bussa a casa tua, no? Bussa sì. A casa tu che dici? Beh, aspetti un attimo, prima devo controllare. Ho bussato mia figlia intanto. Ecco, devo controllare a che titolo entri dentro casa, beh, no? Sì, questo sicuro. È la stessa cosa dovremmo fare noi, la stessa no, identica cosa. Ma noi come anzi, no? Assolutamente sì. Vanno abbattute, ne parleremo diffusamente delle prossime puntate. No, che cosa vanno abbattute? Vanno abbattute tutte le frontiere, cioè non dovremmo abbattute ci più frontiere. No, non c'è frontiere, non devono esistere. Non devono esistere. Parenzo, frontiere. Due punti. Le frontiere vanno abbattute. Totalmente. Tu sei come quel Bertolotto dell'altro giorno, il signor Bertolotto Borlotto l'altro giorno, quell'imprenditore lì, Borlotto, dei fagioli Borlotti. Bravissimo quello lì. Borlotti, che dice che fra poco diventeremo tutti marroni, tutti color cioccolata. No, ma adesso è naturale che ormai anche nelle classi di tua figlia ci sono bambini cinesi. Ma tu sai che in classe di mia figlia, in realtà, qui a Milano, col cazzo che ci sono molti extracomunitari. Molto male. molto male. Allora, quindi... Sgarbi, è meglio scopare una figa che prendere una... Così dice Vittorione, no? Ho detto io, eh? Sentiamo. No, ormai non è più nulla chiaro, cioè se tu vieni aggredito devi farti colpire e non reagire. Se tu dici che ti piacciono le donne, sembra che tu faccia una dichiarazione. Voglio fare il quesito, la domanda, a quanti vi ascolto. È meglio scopare una figa che prenderlo nel culo. Vabbè, questa però non è nemmeno una domanda, è un'affermazione, come dire, da eterosessuale, diciamo, no? Cioè, mi sembra una cosa abbastanza scontata, Sgarbone, eh? Una cosa abbastanza scontata. Però la cosa principale che ha detto Sgarbi è che ha problemi di erezione. Questa è una cosa che già un po' si sapeva, ce l'aveva confessata anche a noi, diciamo, in maniera più chiara, però lo dice in questa occasione. Giusto tema di apertura della puntata. Assolutamente. Giusto. Ho problemi di erezione, bisogna liberarsi. Sì, ma tu ti stupisci tanto. Queste cose Sgarbi le ha dette, se non sbaglio, in una trasmissione del pomeriggio della televisione con cui lavori tu, la 7 pomeriggio, di solito davanti alla televisione è una forma di servizio pubblico, di fronte alla, come dire, di fronte alla televisione nel primo pomeriggio non ci sono maggiorenni di solito, cioè non ci sono giovani. Beh, no, scafati. Però c'è un pubblico ci di sono anziani, anziani i quali che è molto attento a questa sì. tematica che tu stai ponendo. Sì, però ragazzi, dai, ci potrebbero essere anche minori in teoria, a me non me ne frega niente, non guardano la 7. Vabbè. Comunque, Sgarbi. L'ansia da prestazione determina anche nei giovani problemi che sono psicologici. L'erezione automatica che garantiscono i medicinali scioglie il problema psicologico. Mi pare però bizzarro paragonare una medicina a una droga e, visto che appare, secondo me, non pericolosa per l'uso che se ne fa, sarebbe giusto liberalizzarla. Io devo dire che invecchiando ho dei problemi di erezione. No, vabbè, e quindi, no, no, e quindi non credo che sia una malattia, non sono una malattia, sono una necessità di avere energie che il tempo ti limita. No, no, i dettagli no, i dettagli no, i dettagli no, signora Panella, i dettagli no. Ragione, ma poi che vuol dire liberalizzare la pillola blu? Ci vorrebbe che fosse regalata? Che fosse regalata e fosse data ai vecchi, agli anziani? Questo dice? Bah. Poi c'era la signora De Girolamo, questo ieri, insomma. Se tu provi una... Io verso di te, per esempio, verso qualunque donna, non ho nessun problema psicologico, quindi capisci se la cosa l'origine accade. Del mondo. Poi hai un'eccitazione che una donna favorisce più di un'altra. In certe situazioni, soprattutto quelle coniugali, l'eccitazione è ridotta per la consuetudine. Certo. Quindi non trovo che l'uso di un medicinale che ti riaccende il desiderio fisico debba essere interdetto. Mi è proprio depresso adesso. C'è la De Girolamo che dice mi è proprio depresso. Beh, sta raccontando la pure semplice verità. Cioè, c'ho Sgarbi, cioè, il matrimonio riduce l'eccitazione, non c'è dubbio. Che fosse veramente De Girolamo si è depressa. Vittorio, mi hai depresso con questa storia del coniugale. Che peccato dover chiudere la puntata così. Che pensavo a Boccia, io Boccia usa Chalis o no? Chiariamo non per te, dico. Per garantirti lo stesso desiderio che avrebbe per una nuova. Posso una nuova dirti, posso dirti che spero proprio di no. Che mi auguro che sia io l'unica fonte di ispirazione. Ecco, questa risposta molto sincera della signora De Girolamo, deputata tornata nell'alveo berlusconiano, nasconde però una paranoia, c'è una fissazione. Spero che io sia l'unica a fargli accedere, a farlo accedere. Sì, ma è anche... una psicologia sbagliata. Cioè, non capibile. È perché non mi ecciti più, è perché ormai ti conosco e dunque non riesco più a provare quell'adrenalina profonda, quello scatto. Quell'erezione immediata, se proprio vogliamo chiamarla nel modo sgarbiano, non riesco più, è normale, è scontato, è comunque una cosa anche no, banale. E lì, temi... aspetta, e lì invece c'è l'ambizione, anche se vogliamo fuori tempo massimo, un'ambizione anche antica, per carità, sicuramente sincera, di dire: beh, spero di essere io l'unica a fartelo rizzare, se proprio vogliamo andare proprio al concreto. No? Non dice così, naturalmente, la signora De Girolamo, perché pur sempre. Della signora De Girolamo si tratta, però è tradotto così. No, la risposta che darebbe tuo marito, se fosse sincero, che probabilmente ti darà nell'intimo, è no. Non sei tu, non puoi essere tu dopo tanti anni. E anche se usiamo qualche pillolina, non c'è niente di strano, non c'è niente di male. Anzi, se usassi le pilloline solo con me, sarebbe cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Naturalmente. Ecco l'altro. qualche voce da Alatri, paese dove vogliono la giustizia sommaria. Da quello che si sente vorrebbero la giustizia sommaria, cioè tutta la giustizia che scorre, che magari porterà alla condanna, chissà, probabilmente all'ergastolo, o magari, che ne so, questi qua faranno passare l'idea di essere matti o di essere in preda alla cocaina, e magari riusciranno a avere, che ne so, 30 anni, 20 anni, perché questo in Italia accade. In Italia accade che anche assassini importanti vengono condannati a 20 anni, a 30 anni invece che all'ergastolo. Questo accade, e il rito abbreviato e questo e quest'altro. Poi da qui alla giustizia sommaria naturalmente il passo è lungo. Pensate che verrà fatta giustizia? Io lo spero, è molto meglio la giustizia privata, fidati. In che senso? Io ti faccio la domanda personale: se era tuo figlio, come avresti reagito? Cioè, se dobbiamo tornare all'antichità, da occhio per occhio, dente per dente. E se la giustizia non viene fatta dalla legge, perché no? Perché non farlo noi? Ma in che modo? In un modo o nell'altro, giustizia viene fatta. Brucia, vai col traffico, devo cacare, non mi pigli il wifi in bagno. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presenta La Zanzara. Salve Cruciani, io non sono una sua fan, ma stanotte l'ho sognata e lei era così dolce. Bah. Allora ragazzi, ormai Alessandro Cecchi Paone, detto anche che capavone da alcuni, in senso dispregiativo, fa la parte nelle trasmissioni di Mediaset che fu di Librandi, che ogni tanto riappare. No, fa la parte del buon senso. Sì, mi pare. Per te la parte del buon senso. Ma non per me. Non mi interessa a me la parte del buon senso. Che vuol dire? Può darsi in alcuni casi sì, in altri no. Dipende da quello che dice. Per esempio, in questo caso no. Ti spiego perché. Dice: Cristo non vuole che si uccida. Si parla sempre della solita storia di quelli che sparano. Cristo non vuole che si uccida. No, senti, poi ti faccio una considerazione. Senti. Cristo e Mosè hanno detto non uccidere mai per nessuna ragione. I beni, i soldi non sono equivalenti come valore ad una vita. E non è possibile che nessuno di voi stia dicendo che ammazzare un essere umano non è un problema di soldi di avvocati, ma è una tragedia per chi ammazza qualcuno. Sì, però vorrei dire al signor Cecchi Paone, ad Alessandro Cecchi Paone, che non è che Cristo può essere utilizzato così alla carte, diciamo, no? Ma è vero, ma uno che si professa cattolico non può invocare l'uso delle armi. Ma non è vero, a parte che non è vero, non è affatto vero questo. Cioè, infatti un prete che abbiamo intervistato qualche giorno fa ha detto il contrario. Ma lasciamo perdere. Lascia perdere adesso le disquisizioni filosofiche su questo. Anche quelli delle crociate. Però ti dico una cosa. Ti dico una cosa, nel caso di Cecchi Paone, se Cristo dice che se Cristo sostiene Cecchi Paone non vuole che si uccida, però non vuole nemmeno che la gente si inchiappetti, non vuole nemmeno la sodomia. Apre un altro argomento. No, apre un altro argomento. Nel caso di Cecchi Paone è particolarmente appropriato, no? Cioè, Cecchi Paone, Cristo va bene perché dice che non bisogna uccidere, poi Cristo non va bene, ma Cristo è lo stesso che dice che non bisogna. Dai, su. Senti come lotta Cecchi Paone col giudice Mascolo, col signor Mascolo, che dice che bisogna prendere la pistola in mano. No, in realtà non dice questo. Comunque il giudice che ormai è passato alle cronache come quello che dice: la pistola è giusto sparare in alcuni casi. Lei ha detto che lo Stato non c'è, che lo Stato. No, io ho Alessandro, letto quello che è stato secondo, dichiarato. Facciamo e lei ha detto completare. Che lo Stato ha fallito. No, lei è lo Stato, quindi ha fallito lei. Io non mi metto a fare questi discorsi provocati da lei. Non voglio sentire quello che lei dice. Non interessa quello che lei dice. Con le mie tasse. A me non interessa. C'è una legge che non è quello che lei dice. Guardi, io non le rispondo. Perché adesso non ho più paura dei. È diverso il magistrato dal legislatore. Dovrei insegnarlo io a lei, ma le pare possibile? Ho capito il suo caso, dirò una preghiera per lei, signor. No, grazie, perché lei non è cristiano. E naturalmente ci sono le voci. C'è la piazza contro Cecchi Paone, senti. a nome degli italiani che non vogliono armarsi e non vogliono uccidere. Una legge come questa, che secondo me è buona, invitiamo i ladri ad andare a casa, gli dice chi pone, se lui non gli fa niente, che ha sono piacere. Sono già venuti, caro, per cui io non li inviti a casa sua tutti nulla. I ladri. Mandiamo i ladri a casa di Cecchi Paone. Vai, vai. Le ho detto che mi ci sono trovato. Sono entrati. Dopo vediamo se viene a dire le stesse sono cose. Sono entrati in camera mentre dormivo e io di conseguenza non mi sono armato, non mi armerò, non ucciderò mai un essere umano per nessuna ragione al mondo. Io sono cristiano. Questa è la posizione. Un animale. Lei è un animale. Ma scusa, però, caro Cecchi Paone, adesso la cosa mi fa incazzare. Sei cristiano e allora non prenderlo in quel posto. Se sei cristiano, non mettersi. Sei cristiano, se segui il Vangelo, segui non so che cosa, non prenderlo in quel posto allora. Non è che può essere così, uno utilizzare come vuole i precetti cattolici. Uno dice "Sono cattolico" e Dio dice ma che adesso, non va bene, ti dai, chiedo scusa. Su. Lui farà quello che farà. Io come sai, sono orgogliosamente eterosessuale. Ma cosa non... c'entra? Ma tu no, non puoi dire non puoi sventolare la bandiera del cristianesimo, la bandiera del cattolicesimo, no, e poi prenderla in quel posto, dai, su. Se uno ha il valore della dai, vita. E dai, ma cosa c'entra? Dice "No, io sono cristiano, allora non sparo", e però lo prendi dietro, e però te lo sparano dietro. Dai, su. Detta così è un po' fortina, ma però. Sarà fortina, ma è la verità o no? Comunque, c'è una contraddizione o no? Tu che sei, fatti sentire, alza la voce che non si sente un cazzo. Sì, sicuro, non si sente? C'è una contraddizione o no? Ma sì, c'è una piccolissima velata contraddizione. Questo sì. Lo capisco. Però voglio segnalarti questo, le notizie di Libero Quotidiano. Abbiamo tempo di farlo, lo facciamo. Sì, però dopo. Parla forte, ti prego. Dammi la carica, cazzo! Dammi no, una carica che non ti sento, porca puttana. Ti sento carico come dentro quando scopre che un crimine è stato fatto da un rom. Ti sento carico uguale. Dai, forza. Uguale. Quotidiano Libero, libero.it, ci dice, ci dà questa notizia. Foto della signora Merlino, Mirta Merlino. Sì, che è successo? Dice, tacchi a spillo, gambe nude e Mirta Merlino si presenta così in studio, punto. Sgomento in diretta. Sì. Guarda, i mancati le guardano. Non c'è un cazzo dentro. Tu apri e scopri semplicemente che dice... Mirta Merlino si presenta in studio a bordo di una Vespa rossa fiammante e attacca Donald Trump. Guarda, pazzesca. Claudio da Roma, vai Claudio. Pronto? No, sentivo, volevo parlare di un argomento diverso, ma adesso la contraddizione di Cecchi Paone mi ha un po' preso. Ma io vado un po' indietro negli anni, ma la contraddizione l'ha fatta il creatore, no? In che cioè, senso? Se tu crei l'essere umano lo fai anche gay, perché chi li ha creati? Gay, io. E allora? Giusto. E allora la contraddizione è quando dire che non ci deve essere sodomia. L'hai messi tu in condizioni di... tu dici essendoci il creatore. I preti, io sono cristiano, però un prete non può venire a dire quello è malato, quello è deviato, quella è una creatura del Signore, chi l'ha creata? E dunque io. Anche il Signore è sbagliato da questo punto di vista, avrebbe sbagliato anche il Signore. Chiaramente non, nessuno è perfetto. Vabbè Claudio, di che volevi parlare? Non ho capito. Io volevo parlare di tutte queste, io Sgarbi proprio maestà, odioso al 100%, fin da quando faceva il parassita ai beni culturali. Se è vero che la parassita lavorava, che cazzo c'entra? Sì, lavorava. Stava sempre in aspettativa. Stava in aspettativa perché. Stava in aspettativa per motivi. Sono 2 o 3 mesi che. Giuseppe, sono 2 o 3 mesi. Glielo dica in faccia al signor Sgarbi, però. Glielo dica in faccia. A chi? A Sgarbi. Che si è operato? No. Che era in aspettativa, era un parassita dei beni culturali. Io quello che ho letto sui giornali, lui è stato... Vabbè, allora che vuoi dire? Non ho capito. Del ministero, poi se è vero o no, mi pare che pure è stato condannato. Questo vabbè, allora letto, sì, è vero, è stato condannato, sì. E allora, scusatemi, ma adesso stai in una tale condizione che parlare di... A parte che l'orario non è quello giusto per parlare di... Vabbè, ma Claudio, che vuoi dire? Dai, forza. Bella. A me questa gente non ci insegna niente, ma è possibile che io adesso pure la 7, l'accendi, ci stanno sempre le solite facce, non ci si fa più. Io devo sentire la Di Girolamo che viene a parlare di legislatura e di regole quando è stata messa. Vabbè Claudio, ciao, arrivederci, Roma. Ciao, mi hai rotto i coglioni, ciao. Ed è venerdì, crucia fino a notte, non mi rompete i coglioni, fino a notte. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Venerdì! Stronzone! La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. A Grugia, se diamo retta a Parenzio, la Mecca la portiamo a posto del Vaticano, il trasporto avverrebbe su carovane di cammelli, le guardie giurate andrebbero in giro vestiti come i Tuareg e in giro per l'Italia facciamo pure le piramidi. Gentili telespettatrici e telespettatori, buongiorno e benvenuti a questa edizione mattiniera del TG Brains. La notizia di stamani è che oggi ci siamo. Domani puro. Chi ci va male? Chi ci va male sa gli ande il culo. Da. Buona giornata. Arrivederci, caro. Allora ragazzi, io non voglio insistere sempre sugli stessi punti, sugli stessi argomenti, anche se alcuni tormentoni sono quelli che servono a far avvicinare il pubblico a questo straordinario luogo di libertà, che è la trasmissione che conduciamo da qualche anno in maniera, come dire, moderata, certamente moderata. Io e quel signore che oggi si trova nei bagni a forma di conchiglia, no, nei bagni a forma di, no, non so di che cosa, quelli laccati d'oro, laccati, no, d'oro, lì di Siena. Alza la voce, alza la voce, alza la voce. Ho detto che non sono Gomorra. Comunque, questa di alza la voce, è vero che mi sono arrivati una serie di messaggi di fedeli ascoltatrici che mi dicono si sente benissimo alla radio, quindi... Non è vero, alza la voce, d'accordo, ma si sente bene tra noi. Allora ragazzi, la questione principale su cui io batto sempre è la libertà, e soprattutto è la libertà anche di andare a puttane, al contrario di quello che dice Parenzo. Ora io sono molto vicino a un signore, ancora una volta, di 85 anni, che va premiato, gli va data una medaglia al valore, perché a 85 anni uscire da casa in un posto che si chiama Masserano, credo che sia in provincia di Biella, e andare a puttane, 85 fottutissimi anni, 85, amici miei, esce da casa questo signore, 85 anni, Masserano, provincia di Biella, va a prostitute, viene pizzicato dai carabinieri, 500 euro di multa. Eh beh, certo, tutto questo perché un sindaco di Masserano, per risolvere forse un problema, eccetera, ha messo questo maledetto provvedimento che punisce i clienti. È una roba vergognosa, che già qualche tribunale ha dichiarato contro la legge, contro la Costituzione, ma contro... Non è contro, ma scusami, ma non può, il nonnino, il simpatico nonnino erotomane... No, ma non è erotomane, magari si è voluto fare quella che in gergo si dice una pelle, amico mio, una scopata, una cosa veloce... Scusami, una pelle? Una pelle, sai, così, pelle. Una pelle. Una pelle, adesso magari probabilmente speriamo abbia messo il preservativo, 85 anni, che se sai, sì. 85 anni, se ti pigli una malattia o qualcosa, chi se ne frega, per carità, non voglio dire che non bisogna mettere il cappuccio anche a 85 anni, però questo signore 85 anni è uscito da casa, si è recato in una zona probabilmente... Ma non poteva starsene a casa sua, ma perché, ma se uno ha 85... Un filmino magari... Ma guarda che sei incredibile, guarda... Ma anziché andare a sfruttare una povera, ma perché è andato? È andato lì? Ma qual è il problema? Qual, ma è il punto? Ma a favore della sessualità degli anziani. Appunto, 85 anni, e questo penso qua... penso anche al tuo futuro, anzi al tuo presente, quindi sono favorevolissimo a che voi anziani abbiate una sessualità, come dire, libera, però amico mio, se una è sfruttata, ma non posso che condannare, scusami. Ma io non lo so se questo è sfruttato o no. Ho capito, ma ha preso 500 euro di multa, gli è costata cara, va bene, basta, non lo farei un martire. Stai zitto, ciucciacazzi. Questa è la solita signora prostituta del che sta nella roulotte, no? Penso di sì. Sì, la signora Lucia. Da vecchia. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Vabbè, e da te non viene più nessuno, perché sei una vecchia. Allora, il signor Borlotto insiste ancora. Dice che abbiamo, è l'imprenditore, voglio ricordare a tutti, l'imprenditore, il quale imprenditore, e con grande plauso di Parenzo, con grande plauso di tutti i buonisti italiani, con grande plauso di tutti quelli che pensano che il mondo non funzioni secondo le regole, anche rigide in alcuni casi, ma sono così alla page, fa figo dire, beh, questi mi hanno rapinato dentro casa, in fondo non è successo nulla, qualche botta, sì, mia moglie e mia figlia sono state un po' malmenate, questo aveva un cacciavite, ma in fin dei conti chissà cosa, quante ne ha passate questo ladro. Adesso, se dà l'orologio a mia moglie, se ci restituisce l'orologio, che è l'unica cosa che conta secondo lui, se chiede scusa e poi sconta la sua pena, ecco, dopo gli diamo un lavoretto civile. civile. Io penso che sia una vergogna, penso che sia una cosa sbagliata. Comunque questo signore, ho già detto ieri, questo signore Bertolotto, non so come si chiami esattamente, Bertolotto mi dicono, non so. Dice che abbiamo la colpa è anche nostra che abbiamo colonizzato l'Africa. Ma ti rendi conto? Abbiamo colonizzato l'Africa. Beh, questo Bertolotto. Non credo però. Dai, su, dai. Noi dobbiamo capire questa gente. Noi l'Africa, io parlo dell'Africa, l'abbiamo colonizzata. Gli prendiamo il petrolio, il gas, gli prendiamo i minerali, gli diamo niente, paghiamo quattro signori che li comandano. Le Americhe da 200 anni circa hanno avuto le repubbliche, prima abbiamo ammazzato tutti gli indiani. L'Africa è ancora selvaggia e questa gente gli facciamo vedere tramite, io lo chiamo Ciccio, ma non ce l'ho più, il telefonino, loro vedono tutto, dico, ma io vado là a vivere, ma anch'io fossi africano o fossi di questi paesi in crisi verrei qua. Scusate, cosa cazzo c'entrano gli indiani d'America con tutta questa storia della... Non si attaccare a ogni parola, però. Cioè, abbiamo colonizzato... Questa è la più grande boiata che si possa dire. Siccome abbiamo reso quei popoli poveri, secondo loro, in realtà sono politici corrotti, hanno fatto qualsiasi cosa, pure. Siccome l'Occidente, noi siamo colpevoli di avere colonizzato l'Africa, adesso, se vengono qua e rubano, in fondo, si prendono anche una parte del mal tolto. E poi dobbiamo essere buoni, bisogna assumerli nelle aziende. E quelli che invece si fanno un culo così per mandare curriculum che non servono un cazzo perché pare che bisogna andare a giocare a calcetto e altre cose se la pigliano in quel posto. Dai, su. Noi diciamo armiamoci. Tanto in Italia è pieno di gente, sono tutti separati, sono tutti con problemi. Andiamo ad armare anche degli psicopatici. Stiamo attenti. Qui lei ha un'arma in casa? Mai, mai avuto e non vi armerò mai. Ma scusa, ma che cazzo c'entra che sono tutti separati con problemi? Cioè, tutti quelli separati, cioè io e Parenzo dovremmo essere armati allora. Cioè, dovremmo essere dei psicopatici. Ma tu ti rendi conto del personaggio, però? No, ma tu stai dando ragione, stai appoggiando. Ieri hai detto, l'altro giorno, quando l'abbiamo intervistato, hai detto che questo qua andrebbe premiato. Ma no, perché è uno che Repubblica, spero gli dia una medaglia, lo faccia cavaliere. Ma questo, del lavoro. Questo dice che le persone separate hanno dei problemi. Cioè, no, vabbè, ma adesso lascia star nel merito. Sì, lascio, non entrare nel dettaglio. Non dice. Entrare nel merito. Rimaniamo al punto. È meglio che parli meno però questo qua di altre cose. Sì, devo fare il portavoce anche di questo qui. Rimaniamo al punto, Sì. Questo ottimo cittadino italiano, sì, che non è di sinistra, di destra, niente, è un cittadino che ha subito una rapina. Sì, gli sì. hanno rubato un orologio che per lui era importantissimo. Lui dice, una volta che questo ha scontato la pena, chiede scuse e ha pagato il suo debito con la giustizia, sono pronto a finire il lavoro. Ma è una cosa meravigliosa! No, è un cretino secondo me. Soltanto questo è il punto. Voi con Salvini potete contestare un uomo ma simile. Io non sono né con Salvini no, né con... No, voi con Salvini, quella lista che si chiama Voi con Salvini. No, perché... è Noi con Salvini, non no, è Voi con Salvini. No, assolutamente no, non ti permettere. Voi. No, ma è Noi con... Ma che c'è? Si chiama ma Noi. No, è Voi. Ma che vuol dire? Quella è la sigla Noi. No, ma chi non vuole dire tu. Cambiata. Non vuole dire tu. Ma cambiata perché anche la sigla arrogante. Cioè noi. Tu dici Noi. Uno si dovrebbe dire no, io non appartengo, sono siete ma voi. Ma è una sigla arrogante. Voi. Forse, bisognerebbe mettere con Salvini. Questo Bertolotto, è da... Borlotto, senti Borlotto. Tirare sui muri. Ma tirò sul muro. Noi, i comuni, avevano i muri, le città avevano i muri, ma avevano i muri per difendersi e per regolarizzare i flussi del commercio. Perciò noi col mare nostro abbiamo sempre commercializzato con questa gente qua. Fratellanza e solidarietà. Bah. Basta muri, questo sembra veramente Parenzo. Cioè Bertolotto è il perfetto parenziano. No, ma cioè, è il perfetto migliore. Parenziano. Ma che Italia migliore, è dai. Quel pezzo è l'Italia maggioritaria. No muri, senti questa roba altra boia. No muri, questa è un'altra cosa, no muri. È l'Italia questa... maggioritaria. La fratellanza passa attraverso una certa solidarietà, no? Però qua noi che li accogliamo, gente che non ha cultura, perché al massimo quello lì aveva una capra. Come possiamo confrontarci con gente così? Come possono anche capire noi? Allora vai, andiamo a Francesco, provincia di Teramo. Vai, Francesco, provincia di Teramo. Sì, ciao Parenzo, io ti volevo dire una cosa. Io voglio fare un plauso a quel vecchio che a 85 anni ancora pensa alla fregna. perché ragazzi c'è una crisi incredibile, cioè per arrivare alla fine del mese dobbiamo soffrire, ma almeno pensiamo a scopare, cazzo. Vabbè, tu, però, tu soffri, diciamo, noi soffriamo meno, bisogna ammetterlo, noi soffriamo meno. Della popolazione italiana, voi fortunatamente soffrite meno. Noi siamo dei privilegiati e soffriamo meno, ma riconosciamo di essere privilegiati. Io che sono abruzzese, la terra di Rocco Siffredi, per noi la cosa più importante è la fregna. Ma non è vero, per tutti è più importante, non è che solo per te che sei abruzzese. Cioè, non è vero, perché come dice Sembroni, i giovani d'oggi si fanno crescere la barba, invece la prova della virilità è l'anerchia. Vabbè, ma questo non fare l'imitatore tardivo di Sembroni, no, che non ci riesce. Vabbè, ma allora che vuoi? Non ho capito. Che cosa hai chiamato a fare? Cosa hai chiamato a fare? Prima della pillola. Ma no, non noi, è il signor Sgarbi che ne ha parlato, non noi. Ha ragione Sgarbi, perché io a 29 anni ogni tanto vado a fare dei weekend nell'est Europa, e a 29 anni prendo la pillola perché me ne voglio scopare 4-5 al giorno. Parenzo, è un miserabile questo Francesco della provincia di Teramo? Sicuramente è un maiale, sicuramente è un pervertito. Ma vuole maiale? Ma perché è un maiale? Scusa, mi devi spiegare perché è un pervertito. È uno che ogni tanto va a fare in assoluta libertà, senza recare danno a nessuno, senza, come dire, ammazzare nessuno. Dire, è un maiale col botto, sicuramente. Ma perché? Perché un maiale? Sì, un maiale perché è una brutta persona. Ma perché una brutta persona? Perché vuole ogni tanto. È un maniaco. Si trovi una fidanzata. Ma se non la vuole trovare, vuole trombare e non vuole impegni. Oppure ce l'ha la fidanzata? Sei fidanzato, Francesco? Ma non sono fidanzato, ma io non vedo dove cazzo è il problema. Lavoro 25 giorni al mese, quei 5 giorni dove non lavoro posso fare quel cazzo che mi pare in quei paesi laddove è legalizzata anche la prostituzione. Però si renda conto della miseria umana nella quale è finito, perché alla fine non riesce a instaurare un rapporto Ma come si permette lei di giudicare la miseria umana? Beh, è una miseria umana assoluta, non riesce a instaurare un rapporto di affettività che vada oltre svuotare quel suo piccolino coso che hai dietro le gambe. Ma io la mia affettività ce l'ho con i miei amici, con i miei parenti e con chi mi trovo bene. Per lei l'affettività è avere una donna. No, ma lei a parte che evidentemente ha anche dei problemi di misure per ma cui perché? Deve ma chi te l'ha detto? Ma venga qui e vediamo chi ce l'ha più lungo. Vabbè, adesso non facciamo la solita cosa ridicola. Dai. Roba da caserma. Però, ma sei tu che hai introdotto questo argomento. Ha un evidente problema che vuole provare e dimostrare a se stesso di essere ancora in grado di fare. Cioè tu dici no, perché se trova una ragazza normale poi lo mette alla prova. Ma certo. E cade, quindi, e cade nella. Parenzo, ma che cazzo dici? È chiaro che pagando risolve tutti i suoi problemi. Ma io capisco. Anche però, di sicurezza personale, dici, di sicurezza psicologica. Di sicurezza sì, ma quindi da questo punto di vista è una buona un'analisi che potrebbe anche trovare. Però io non mi permetto, Francesco, io dico semplicemente vai in quei paesi perché è libero di fare quello che vuole. In Italia non si può fare. Ma in quei paesi anche conosciutissimo, come uno che ce l'ha piccolo, lo dicono sempre. Ma chi lo dice che ce l'ha piccolo? Che ma ne sai? Ma non è vero. Vabbè, Francesco, dimmi è tu anche qualcosa. Indolore, è un ragazzo indolore. Francesco, dimmi. Ma bisogna ascoltare queste cazzate che sta dicendo Parenzo. Ma no, ce l'ha piccolo. Prima ho detto ce l'ha piccolo. Non ti sa, mi sta offendendo. Io non mi sono permesso di dirle. Non è un'offesa. Non è un'offesa. Perché è un'offesa. Mi dispiace per lei. Le misure non sono un'offesa. Fermo lì. Come dire, confrontarsi con questo perché evidentemente non riesce ad avere un rapporto duraturo con una compagna, con un'amichetta, e darle quell'amore. Ma va bene, mi dispiace per lei. Però. Fermo lì. Buonasera amico Rom, sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica. Col napalm. Fiamme nel campo Rom. Napalm. Tua madre lo diceva, non andare su YouPal. Napalm. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. Bonnez, parlate di Pucciac. Io quando percepisco la puzza fetida di quell'ebreo coglione cuckold cornuto frocetto con cazzetto mi si alza la carogna e la poi non la tengo più sotto controllo. Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her Allora, a proposito sempre di furti e cose varie, reazioni, c'è un signore che fa il pasticcere a Roncade, credo che sia provincia di Treviso, che ha subito 20 furti, 20 fottutissimi furti. Sentiamolo, si chiama Peloso di cognome, Peloso, Peloso. Sono un cacciatore, però io un'arma contro una persona non la adopererei mai. Un bastone sì, non si fa lo scontare in Italia che vengono in albergo. Siamo invasi ormai. Io sono convinto che fra un po' di anni comanderanno loro. Non riesco più a arrivare, ho sempre paura di trovare le porte aperte. Tutte le mattine io sono agli estremi, sono agli estremi. Lasciando da parte le pene che vadano a scontare a casa sua, quando fanno qua il danno, non si fa lo scontare in Italia che vengono in albergo. È meglio evitare l'albergo e mandarli a casa proprio, che là li bastonano. Non so. Avete sentito anche la voce, il pianto di fronte al fatto che questo qua, questo signore, ogni mattina continuamente viene. Che cosa fai? Ah, no, fai così. Sospiro. Sospiri perché queste cose qui non le puoi sentire. Ma certo che puoi sentire, ma che cosa vuol dire? Non vuol dire niente, non vuol dire nulla. Non si sente sicura questa gente. Vuole reagire. Vuole reagire e non vuole essere messa sotto accusa quando reagisce. Ma c'è lo Stato. Questo paese in gente che c'è lo Stato, strada, va bene, sì, certo, c'è lo Stato, ma quando lo Stato, per esempio, mi scarcera, adesso il pensiero mi viene fisso lì, perché mi viene fisso lì, ci sono altre persone che per poche dosi di droga sono finite in galera, invece lo Stato ha scarcerato un tizio ad Alatri, il quale 7 ore dopo, come ci ha raccontato ieri un signore che fa l'avvocato, è andato a massacrare. Dunque lo Stato qualche volta è schizofrenico, ma sì o no? E allora questo dico, poi certo che ci deve essere lo Stato, mica l'anarchia, ma posso dire che qualche volta la schizofrenia ti fa venire il sangue al cervello, la schizofrenia di questo Stato, dai, su! Angelo da Milano, vai Angelo, vai. Angelo. Ciao Cruciani. Dimmi caro, dimmi caro. Volevo dirti, come al solito, parli di cose che poi però per esempio, non conosci. Per esempio, le tue cagate a casa. Ma dimmi, vai nel concreto, vai. Vado nel concreto. Quando mai Cristo ha detto non inchiappettatevi? Ma io non ho detto questo. C'è una persona che ha detto, se c'era uno al mondo che ha detto fate quel cacchio che volete. Senti, poi, amico mio, allora però, io per voi è sempre aperto, sì. Allora però andiamo e parla uno che non è che gliene frega più di tanto, però sì, però andiamo, facciamo un riavvolgiamo il nastro, sì. E che cosa è accaduto? Il signor Cecchi Paone, che io apprezzo, che stimo, quello che volete, eccetera eccetera, ha detto Cristo non vuole che uno ammazzi, che una persona ammazzi. E questo è verissimo, sì, ma detto, certo, assolutamente, come a parte che detto, citare il Vangelo, non so che cosa, la religione, il cristianesimo, per farsi parlare e per dare contro a quelli che sparano e che vogliono armarsi, mi sembra anche ridicolo. Ma comunque, lui dice: Cristo, una cosa diversa, vabbè, lui, Cristo non vuole che si uccida. Ha detto: io sono cristiano. Ha detto: io sono cristiano. E dunque non sparo. Sì, però, se sei cristiano cattolico apostolico, io ho aggiunto in maniera brutale, come dico sempre, non lo pigli in quel posto. L'hai aggiunto tu. Vabbè, ma certo che l'ho aggiunto io, lo sto dicendo che l'ho aggiunto io. Una cosa. Sì, amico mio, la religione cattolica non prevede l'inchiappettamento, la sodomia, ma questo anche altre religioni. No, per la cui religione cattolica, ma non Cristo. Ma sì, va bene, ma è chiaro, non Cristo, ma è una semplificazione, no dai, su, amico mio, mica stiamo al simposio di filosofia teoretica qua. No, però dire una cosa. Ma però cosa? Ma non cosa, Angelo? Cosa? Una cosa così, parlare così di una cosa che parlare così cosa? Che dici? Parlare così che non conosco. La religione cattolica prevede, ammette l'omosessualità. La Maddalena era una zoccola, cazzo, ce l'aveva amicissima. Allora, ammette l'omosessualità, sì o no? La religione cattolica la ammette o no l'omosessualità? La religione cattolica è una cosa. Cristo, oddio, niente, vuole fare la conferenza. Vuole fare la conferenza, non c'è niente da fare. Vuole fare la conferenza. Niente, vuole fare la conferenza sulla differenza tra Cristo e la religione cattolica. Eccetera. Vabbè, fai la conferenza, vai. Sei bravo, professore, fai la conferenza, dai. No, un'altra cosa. Hai detto, parlando del Girolamo, hai detto, no, dopo anni e anni di rapporto, non potrà mai essere la donna con cui è stato tutta la vita a fargli orizzare, giusto? Non è che devi fare l'esegesi di quello che comunque vai. Ma scusami, ma qual è il tuo rapporto più lungo che hai avuto con un monogamo? Io? Monogamo? Vai a parlare di cose che non stai. Monogamo? Che ne sai tu? Scusa. No, non lo so, dico. Quando, cioè, scusami. Come che ne sai tu? Ma che ne sai? Che ne sai? Solo con una per 30 anni. Che ne sai? La cosa più bella della mia vita. No, è un, tu hai tu scopato dici, solo no, tu hai scopato so che non è così, tu hai scopato so solo, una con, solo con una con 30 anni, per 30 anni. Non lo so. Non lo so, dimmi. No, uno può dire ho scopato solo con una per 30 anni. Posso dire che è una tristezza o no? No, no, perché non lo posso dire. Questo è il professore. È una cosa che non conosci minimamente. Vabbè, posso avere la mia opinione o no? Cioè posso esprimere la mia opinione? Non conosci l'altro. Vabbè, è che è arrivato il filosofo oggi, che vuole andare. Il filosofo è arrivato, il filosofo. Siccome non ho sperimentato, ma cosa c'entra? Appunto, vuole, ma appunto per questo, appunto perché non l'ho sperimentato, penso che sia impossibile, secondo me. Io ti dico a me. Vabbè, ciao Luigi da Livorno, ciao. Luigi, ma hai rotto i coglioni? Luigi da Livorno, dai. Luigi, dimmi. Sì, pronto, salve Cruciani, salve Parenzo. No, io volevo solo lanciare una proposta. Secondo me, dopo una certa età, 80-85 anni, la scopata, ma perché no, anche lo spinello dovrebbe essere prescritto dal medico se uno lo vuole. Allora, lo spinello è quello che tu, credo, oggi ti sei fatto prima di collegarci. Più di uno. Più di uno, sì o no? Sbaglio perché hai questa voce un po' impastata. Assolutamente no, sfortunatamente. Vabbè, non è, tu dici, è una vecchia teoria anche di gente che è intervenuta qui alla Zanzara, cioè le prostitute dovrebbero essere passate dal Servizio Sanitario Nazionale, giusto? Ah, allora io mi scuso che non ho sentito. Ma non devi scusarti di niente, hai il cervello in pappa dalla droga, sicuramente sei fumato, perso, e questo è assolutamente è una cosa di grande libertà, però nello stesso tempo si sente il cervello che fa fatica. Sicuramente perché mi sto prestando a questo gioco. Ciao Luigi, ciao. Vabbè, ciao. Allora, c'è un signore, un pizzicato dalle Iene, un signore islamico che considera l'omosessualità una malattia e ha portato il figlio a curarsi da un medico, su consiglio anche di un medico italiano. Le Iene stanno cercando di far tornare, se già non ci sono riuscite, questo signore, questo ragazzo in Italia dal Marocco. È andato un medico. Ma perché dal medico? Sì. Ma c'è qualcosa, la mamma lo sa. Qual è il problema? Per l'omosessualità. Sì. Ma signor Hamda, ma non si cura l'omosessualità? Sì, sicuro. No, ma si no, fidi. Tranquillo. Ma non si può curare l'omosessualità? Sì. Non c'è modo. No. Perché non è una malattia, capisce, signor Hamda? No, Hamda. malattia di l'altra cosa, capito? Che cosa? Sì, malato lui. Quando è andato al Marocco è stato là forse 5 mesi per parlare con il dottore, così tutti i giorni. Per farlo stare con le donne? Sì. La verità è che a lei la cosa che non torna è il fatto che suo figlio sia omosessuale. Il suo problema è questo? Sì. Oh, vabbè. Questo problema, sì. Capisci? Non c'è questa. Non esiste. No, c'è. Allora, quel dottore, quando è passato 5-6 mesi, allora bugiardo questo, non capisci niente. Un cazzo, capisci? No. Fidati. No, c'è tanto italiano qua. E che fanno? Vanno dal dottore? Sì. L'omosessualità non si cura, capisce? Sì, sicuro. Tu l'hai portato in Marocco per curarlo. Il problema è che non c'ha nessuna malattia, tuo figlio è sano. È malato, malato. Non è malato. Malato. Ma sei più malato te, figlio. Sì, aspetta. Allora, ovviamente di gente che pensa che l'omosessualità sia una malattia e di gente che pensa che il proprio figlio magari gay sia malato, è pieno il mondo, non è solo prerogativa degli islamici, no? La dottoressa allora, De Mari, che però non dice che sono malati, dice un'altra cosa che fa male pigliarlo in culo, però dice ancora peggio. Sì, dice. Che è dannoso. E ragazzi, adesso sentirete un signore che si chiama, un signore fantastico, Don Cataldo, fermi tutti, è una cosa eccezionale. Don Cataldo è un esorcista. Lo ha chiamato un signore, Don Cataldo, Palermo, Sicilia, un esorcista. Lo ha chiamato un signore, Davide, un ragazzo, Davide, omosessuale, che è però indemoniato. Dice di essere indemoniato. Lo guarirà oppure no? Pronto? Don Cataldo, buonasera, mi scusi se la disturbo. Io mi chiamo Davide, la chiamo da Roma. E va bene, siamo riuniti qua i frati. Comunque. Posso parlarle liberamente, Don Cataldo? Sì, Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Come mai telefono da Roma? A Roma ci sono. Sì, sono già stato alla chiesa del Gesù, ma io non guarisco. E allora mi hanno detto di provare con lei. Sì. Io sono gay. Ah. Ho un'ossessione che non mi abbandona. Riguardando questo fatto di gay? Sono ossessionato dal sesso. Non riesco a farne senza. E allora mi chiedo se posso guarire. È una malattia, Don Cataldo. Sì, ma è una malattia aggravata da una presenza. Una presenza di Satana proprio che lo rende ossessivo, è una ossessione diabolica. La natura non potrebbe avere questo grado di sofferenza. Allora ecco che interviene colui che vuole il male, la distruzione dell'umanità e così. Ancora una cosa, Don Cataldo, perché non le ho detto tutto. Puoi fare qualche penitenza, per esempio, mettersi per un po', se ci riesci un po', avere dolore, un dolore addosso che spegne il fomite, un dolore, per esempio, mettersi un cilizio ai fianchi. Un cilicio ai fianchi, consiglia Don Cataldo. Vedo spesso dietro le persone, non sempre, dietro alle spalle delle ombre. E sento anche adesso come un soffio di vento gelido che mi accarezza la testa. Sì. Freddo. Lo sento anche adesso. Satana. Don Cataldo, faccia qualcosa, Don Cataldo. Nel nome del Padre, sì. Del Figlio, dello Spirito Santo. Sì. Amen. Sì. Signore, sì. Padre Santo. Dio onnipotente, ascolta la nostra preghiera, da dal cielo il tuo angelo santo, custodire, portare, proteggere, visitare, difendere il nostro carissimo Davide. Visita, ti preghiamo, Signore, la tua persona, il suo corpo, l'anima, il suo spirito, la sua casa, lontano da lui tutte le insidie del nemico, fa che i suoi santi angeli abitino sempre qui e la tua benedizione sia sempre su di noi, per Cristo nostro Signore. Amen. Marabella Floncius. Agenque dones proti. Gdossevi. Duttore sic previo. Vitemus sol. Gdossevi. Ecce lignum cruci. Credelate. Fuggi de partes adverse. Credelate. Cid leo de tribu iuda. Aprire libros. Gdossi. Solvere signacula eius. Gdossi. Aios teos. Credelate. Aios tischiros. Aios satanas. Credelate. Reis animas. Dossa si Kyrie, dossa si, Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera, Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera. Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera, questo dice l'esorcista a Davide il Frocio. Rinunzio a Satana, rinunzio, dice rinunzio. Rinunzio, con le sue seduzioni, rinunzio, credi in Dio Padre Onnipotente, ci credo, credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore e Signore del cielo e della terra e della nostra vita, credo, dillo, credo, chi sei tu? Io sono niente e nessuno. Chi miserabile, misero, putrido e fetido, uno che ha l'autorizzazione del vescovo di cacciare il demonio dalle persone che soffrono di più. Vattene via, Satana, dimmi come ti chiami. Lucifero, Satana, Asmodeo, sei Asmodeo, sei il demonio del sesso. Vai via, lascia in pace Davide. Ti esorcizzo, Satana, ti esorcizzo, Asmodeo, vai via, esorcizzo, Asmodeo, vai via, lasci in pace Davide, che appartiene a Dio, lasci in pace Davide, che appartiene a Dio. Dio. No. Ti esorcizzo. No, vai via. Ti esorcizzo. Vai via. Ti esorcizzo. Asmodeo, vattene. Asmodeo, vattene. Ti esorcizzo, spirito immondo, signore delle tenebre, aggressore infernale. Esorcizzo tutti voi, spiriti, che costituite una legione diabolica di Asmodei, demoni, la categoria di demoni la più sporca, demoni del sesso, andate via, vai via, vostra merabella sloggia, cinque sone sprotinus, tuttore sitte previa, vitemus sonne noxium. Il signor Asmodeo. Non lo conoscevo, il signor Asmodeo. Esorcizzo voi, spiriti, che costituite una legione diabolica e disturbate Davide. Lasciate libero Davide. Davide appartiene a Cristo. Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera. Davide deve andare in paradiso. Vattene, Satana, vattene, Asmodeo. Come stai adesso, Davide? Credo vattene, sì. Satana. Cosa hai fatto in questo tempo? Dimmi. Credo sì. Come? Credo sì. Non puoi parlare ancora. Dici, Gesù, ti amo. No. Vattene, Satana. Non c'è posto per te in Davide, perché Davide appartiene a Gesù. Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Asmodeo, dici Gesù. Gesù. Gesù. Ti amo. Gesù. Gesù. Gesù ti amo. Gesù. Gesù. Gesù. Gesù ti amo. Vai via. Gesù ti amo. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via. Vai via. Satana. Vai via nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Vai via nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti esorcizzo, Satana, vai via. Bravo, vedi cosa lo dice. Ora dice, Gesù ti adoro. Gesù, ti adoro. Ti adoro. Ti adoro. Gesù, ti lodo. Gesù, ti lodo. Ti lodo. Ti lodo. Ti lodo. Ti lodo. Bravo, bravo, bravo Davide. Dice, Gesù mi pento. Gesù mi pento di tutti i miei peccati. Di tutti i miei peccati. Non voglio più offenderti. Non voglio più offenderti. Sono stanco. Gioia mia. Però prega, perché è stanco il diavolo, perché non sopporta la preghiera. Hai capito, Davide? Adesso c'è la pubblicità. Poi riprende l'esorcismo. No, ma come? Poi riprende l'esorcismo. Vabbè, si è fermato per la pubblicità. Il Satana si è bloccato un attimo. Ma non si può parlare la pubblicità con Satana. Ehi, La zanzara. Ah, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ma che fa? Vivi con un altro ragazzo? Sì. Il diavolo lui. Dice ha comunicato che, a te. Che sono violento. Signore Gesù. Signore Gesù. Allontana da me il maligno. Allontana da me il maligno. Allontana da me Asmodeo. Asmodeo. Fammi vincere Gesù. Fammi vincere Gesù. Non ne posso più. Non ne posso più. Sono stanco. Sono stanco. Sono stanco. Faccia via. Asmodeo da me. Caccia via, Asmodeo da me. Vai lontano da te. Gesù, liberalo. Grazie. Gesù, guariscilo. Grazie. Devo dormire. No, no, prega, prego un altro poco. Sono stanco. Va bene, stanco perché... E il demonio è stanco. Fai stancare pure tu. Io ad ogni invocazione... Da tutti i malefici, tu devi dire libera mio Padre celeste, ovvero dici così, libera mio Padre di liberami, ogni bontà. Liberami da ogni, o Padre, di ogni bontà, di ogni bontà, dalla fattura di omosessualità. Liberami Padre di ogni bontà. Bravissimo. dalla fattura di suicidio. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle magie bianche, pensa a Dio e parla a Lui. Liberami. Liberami, Lui. Padre. Liberami. Liberami, padre, di ogni bontà. Bravissimo. Ah. Dalle magie bianche. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle magie nere. Liberami, padre, di ogni bontà. Dall'infestazione degli spiriti infernali. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle messe nere. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle sedute spiritiche, dalla cartomanzia, dai maghi. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla medianità degli zingari. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio del fumo. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio della droga. Dal vizio del bere. Dal vizio del bere i liquori forti. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni diaboliche. Liberami, padre, di ogni bontà. Dall'ossessione sessuale. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni gay. Dalle ossessioni omosessuali. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla possessione diabolica. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla schiavizzazione di Satana. Liberami, padre. Liberami, padre, di ogni bontà. Ma scusa, che c'entrano gli zingari? I liguori? Le ossessioni omosex? Ma anche sto Davide, cosa te ne fa? Fermi tutti, fermi. Fermi che non è finita. Come sei? Sì, è uno da Roma a telefonare. No, ma io vengo qua. L'abbiamo discusso con la comunità. Perché devono? Perché restano qua e devono? No, ma no. No, le forze negative restano. Ma io la notte qua benedico il convento. Ma anche per telefono. Oh, ma io qua celebro. E va bene, se quando tu celebri i diavoli se ne vanno tutti. No, che c'entra, ma c'è tanti posti. Ma in cappella, no? È uno da Roma. Ma no, calma, in cappella. Va bene, ma che ne sa? E va bene, ora stiamo terminando, facciamo preghiere in positivo. Vero Davide? Senti, ti senti meglio? Sì. Procurati la Bibbia e procurati il libro Pregate, pregate, pregate. Vai dai Paolini. La e leggera. Poi di domenica deve andare a messa, fare la comunione e prima confessarti. Ma non ti devi incontrare più con questo che ti spinge a fare il gay. Però vero? Sì, non ti devi incontrare. Invece devi incontrarti con Gesù, vedi che Gesù ti libera. Grazie. Ora però devi continuare a pregare solo. Allora tu devi dire il rosario per 5 volte il Padre Nostro, 10 Ave Maria, un Gloria Padre. Per 5 volte un Padre Nostro, 10 Ave Maria, un Gloria Padre. Ora ti metti in ginocchio davanti, ce l'hai un'immagine della Madonna? No. No. E cerca di ti metti in ginocchio verso San Pietro e preghi San Pietro. Immagino. Va bene? Sì. E fai il rosario della pace. E ogni posta costituita da un Padre Nostro, 10 Ave Maria, un Gloria Padre, lo conto con le dita, le 10 Ave Maria. Dio ti benedico. Vedi come stai bene. Il diavolo se n'è andato a causa della preghiera. Se tu preghi non sei più invaso come prima. Farò. Dovresti arrivare a pregare 7 ore al giorno. Tanto? Sì. Grazie ciao, tante. Dai. Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao. 7 ore al giorno. Scusa, 7 ore al giorno per guarire da un esorcismo che in questo caso non c'è, perché non c'è nessun Satana. Era no. Uno finto. Per cui questo ti fa capire quanto questi qua degli esorcismi non capiscono una mazza. Io alcuni rispetto. Ma che doveva fare il povero prete? Okay, ma scusami, almeno sei, paura, sei, eh. Sei in grado di riconoscere Satana? Se uno è esorcista, no, paura, è in grado detto, di riconoscere però. Un bel. Metti che uno vada là dicendo di essere davvero in preda, no? Sì. A e uno dice: beh, riconosco. In questo caso non c'era niente per telefono. Dai, su. Comunque ha una bella voce, Don Cataldo. Metteva anche un certo terrore, Don Cataldo. Sì, io ho paura, infatti. Mamma mia, vai. Luca da Milano, vai. Luca, oh. Marco, Chieti. Ti ha messo paura quello. Marco, dimmi. Eccomi, salve. Allora, io volevo dire che mi sono rotto le palle della dittatura del politicamente corretto, quindi del parenzismo. Anche io ho una fidanzata parenziana che quindi mi fa parlare tantissimo. Detto questo, io volevo soltanto dire che è facile parlare quando si parla di intrusioni in casa e dire no, ma la legittima difesa e quant'altro. Io una volta ho subito un ingresso in casa da parte di due zingare e vi garantisco che io sono uscito dal letto, sono andato in cucina, ho preso il coltello, quello per tagliare la carne, perché io le volevo spanzare. Cioè tu li volevi spanzare, che significa li volevi affettare? Volevo tirare fuori le budella, le volevo affettare, perché chi entra dentro casa ti garantisco che ti suscita i peggiori sentimenti. E quindi a mio avviso anche quel signore lì, come si chiama, Borlotti, è un coglione. Perché è un coglione? Ma come si permette di giudicare così una persona che ha seguito... che dice sempre stronzate. Ma come si permette? Ma mi permetto sì, assolutamente. Ma prega, liberati da Satana, ma come ti permetti? Ma liberati tu da Satana. Ma io non ho nessuno Satana. Ma fatti dentro casa, ti garantisco io, guarda. Cornuto che non sei altro, ma come ti permetti? Ma come ti permette, cornuto, di insultare un cittadino come quello che ha subito un furto e adesso dice i criminali vengono assicurati alla giustizia e poi ne assumono. Allora, intanto, già che la metti così, alle ore, che ore sono? Sono le 8 e 6 minuti, allerto il mio avvocato per querelarti, visto che mi hai dato del cornuto. No, perché cornuto io ho le prove, quindi non è un re, non c'è diffamazione. Vabbè Marco, non ho capito, qual è il punto? Ho le prove. Il punto è che quando si parla, cioè la dittatura di questo politicamente corretto ha rotto le palle. Ma non c'è nessun politicamente corretto, c'è il caso di un cittadino, imprenditore. Il cittadino deve avere il diritto di difendersi come meglio crede quando c'è un'intrusione dentro casa. No, esiste ma con dei limiti e dovresti saperlo benissimo visto che sei figlio di un avvocato. Ma quali limiti? Esiste la possibilità? Ti garantisco che quello che suscita nell'umano sentimento è l'omicidio. Perché quando ti vedi una persona entrare dentro casa... E infatti lo stato di diritto è proprio questo, cioè superare l'umano sentimento, perché altrimenti la società diventa violenta. E questo lo definito tra stato di diritto... No, e infatti con questo stato di diritto la società è diventata sempre più violenta e consente anche ai tuoi amici... Vabbè, ciao Marco. Franco da Bari, vai Franco. Mamma mia. Buonasera. Dimmi Franco. Senta, io sento il vostro programma quando torno a casa in macchina. Sì. Mi stavo domandando, ma cioè, la qualità dell'ascolto... In che senso, scusami Franco, non ho capito. Non avete più, a parte ora io che vi sto facendo aumentare la qualità dell'ascolto. Cioè tu ci stai facendo aumentare la qualità dell'ascolto. Sì, questo. Perché c'è gente che non sa neanche parlare in italiano. Sì, ma è arrivato il professore da Bari, è arrivato il professore da Bari, è arrivato Franco da Bari il professore, dai. Lui sa parlare meglio italiano, gli altri che intervengono quindi sono dei coglioni. Stavo dicendo, Cruciani. Sì. Qualità dell'ascolto è praticamente proprio... Sì, bassissima. Sì. Bassa, no, dell'ascolto, di chi chiama? No, ma sa qual è la domanda? Qual è? Tua parente invece fa il giornalista. Sì. Cioè, normalmente lui fa il giornalista in sede... Sì, ma che cosa volevi dire sull'esorcismo, su qualcosa? Non ho capito. Se mi fa parlare... Sì, dimmi, dai, Franco, dimmi, dai. Non mi interrompo. Che ne so, sì, parlavi in generale. Non ti ho ancora autorizzato a darmi del tu. Sì, vabbè, però, dai, su Franco, io do del tu. Se non ti piace, se non ti piace, abbassi il telefono, non ci rompi coglioni. Ascolta, lo sto per fare, voglio finire di parlare. La domanda che mi faccio è questa: considerato che Parenzo fa il giornalista in sedi molto più prestigiose, molto più prestigiose, lo dici tu, molto più prestigiose, un cazzo. Allora, facciamo così, mi avete richiamato voi. No, ma vai, Franco, vai dritto, cosa vuoi dire? Molto più prestigiose, allora? Allora, non mi devi interrompere. Oddio, vabbè, dai, forza. Stavo dicendo che Parenzo, che fa giornalista in sedi più prestigiose, sì, di questo contenitore, sì, quando poi lui si guarda allo specchio, dice, ma io che faccio la spalla a Cruciani? Sì. Un minimo di credibilità ce l'ha ancora, non la perde. Evidentemente non si può rispondere da solo, no, da te Cruciani. Lui credo sì, che ma ti può rispondere tranquillamente senza. Si è risposto da solo, perché non c'entra niente. Che vuol dire credibilità? Questa è una delle trasmissioni più divertenti che esistono nell'orbe terracolo, quindi non c'è. Sei contento di questa risposta oppure vuoi ancora proseguire su questo? No, assolutamente. Io non mi accontento, non è che me ne può fregare di me. Pentiti. Io penso che pentiti. In verità, Gesù ti adora, Gesù ti loda. Pentiti. Scusa. Asmodeo. Ma come Asmodeo? Asmodeo, che ne so, che cazzo ne so. Allora finiamo qua, ho detto quello che ho detto. Franco, ciao. Salvatore, sempre Bari, vai. Salvatore. Ascolta, io di questi esorcisti qua, varie trasmissioni, da Iene, Striscia, ne ho visti parecchi. Sì, ma sì, questo di stasera mi sembrava molto, ma molto serio. Sì, in secondo che senso? Me hai fatto. Ci credeva. Beh, appunto, allora. E secondo me hai fatto una cazzata stasera, Cruciano. Non ho capito, scusa, ma che c'hai? Una telefonata? Hai una telefonata in attesa? Non ho capito, che c'hai? C'ho altre cose da fare. Ma che cazzo chiami a fare? Ho altre cose da fare, chiami? Ma è incredibile questa sì, cosa. Boh, chiamiamo la Zara e il mondo è finito. Ma no, che cazzo vai dicendo? Ma chi ti si incula? Cioè, Salvatore, non ho capito. Hai chiamato tu, stai dicendo, questo mi sembra un esorcista. Io sto parlando, posso avere una telefonata in attesa? Ma sì, ma puoi avere in attesa, ma siccome sentivo il rumore. Ma siccome sentivo il rumore che mi disturbava, posso dire che mi disturba il rumore? Posso dire? Lo posso dire o no che mi disturba il rumore? Bravo, no, che cazzo chiama a fare? Ho chiamato perché devo chiamare. Ma io sentivo questo rumore. Mi dà fastidio il rumore dell'attesa del telefono. Allora vuoi togliere la suoneria di qualcuno che ti chiama? Vuoi togliere? Togli l'attesa del telefono. L'hai tolta, bravo. Avanti, su, avanti, su. Secondo me hai fatto una cazzata. Perché ho fatto una cazzata? Se questa era seria, a maggior ragione non ho fatto una cazzata. Perché era seria? No, cioè... no, l'hai preso per il culo. No, mi dispiace. Ma no, ma hai scoperto una cosa bizzarra. Sai che non, no, sai che non ci avevo pensato io a questa cosa qua? Sai che è una cosa veramente difficile da capire? Ma certo che l'ho preso per il culo, imbecille, certo che l'ho preso per il culo. E se no, a che serve sta cosa? A cosa serve? Io ti ho detto che tu non lo sai che l'hai preso per il culo. Ti ho detto che hai sbagliato. Ho sbagliato. E perché avrei sbagliato? Perché avrei sbagliato? Spiegami perché. Perché mi sembrava una persona abbastanza seria. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'è? Scusa, ti pare serio uno, a parte che sulla serietà bisogna anche intenderci, ti pare serio un signore esorcista il quale si mette a caccia del diavolo, vuole cacciare il diavolo quando il diavolo palesemente non esiste? Perché ovviamente il signor Mercù, che è autore di questo formidabile sketch, non è posseduto dal diavolo, te lo posso assicurare. Beh, no, su questo si potrebbe discutere. Vabbè, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Salvatore, conosci il signor Asmodeo? Conosci il signor Asmodeo? Conosci Asmodeo o no? Che dici? Come? Non ho capito. Ho detto, fallo stare zitto a quella, che non voglio parlare. Perché non vuoi parlare con Parenzo? Ce l'ha con me questo non qui? Non voglio parlare. Perché non vuoi parlare, scusa? Ce l'ha con me questo qui? Sì, Madonna, no, calma con la Madonna, ma perché non vuoi parlare? Perché non vuoi parlare Madonna con Madonna mia, no, io non sono sentiti, quello che stai a fianco, che bestemmia. Io ho detto, oh Madonna mia. Sì, d'accordo. Perché non vuoi parlare questo, di con Parenzo? Questo sta con la carta e con la penna. Quello ero questo, quello ero quello, quello. Ma glielo posso dire? Si può dire? Sì, dillo. A chi fa impressione? Non ho capito. Ma Salvatore, questo non sembra dire 27,35, 26,42, quello. Oh, pare che di te non ha paura nessuno, pare. Sì, allora, Salvatore. 12, che succede? 12 c'è, forse è stato commesso probabilmente un reato. Quale reato? Non c'è nessun forse, reato. Forse un reato. Ho detto forse questa volta. Puttana Eva. Salvatore. Comunque, quando signor Parenzo. Ma perché non vuoi parlare con Parenzo? Signor Parenzo. Perché non vuoi parlare con Parenzo? Perché è un ipocrita. Perché ipocrita? Ha bestemmiato. L'altra sera ha bestemmiato. Ma non ha bestemmiato. Ha detto per Dio. Ma non l'ha detto. C'è una registrazione. Ma non c'è nessuna registrazione. A parte che non è, una bestemmia. Al limite è un'invocazione. Disse per Dio, a bestemmia. Ma non è vero, ma è un'imprecazione. Scusi, questo signore qui è sposato? Non lo so, sei sposato tu? Questo non sono a cavoli suoi. Ma sei sposato o no? No, perché se lei è non sei... No, se lei è sposato, vai avanti. No, dico, se lei è sposato, le conviene correre a casa. Ancora questa cosa, non ci crede più nessuno. No, correre a casa della sua adorata... Salvatore, ti piacciono i trans? Ti piacciono i trans? No, non ti piacciono. Una cosa allucinante. Perché? Tu vuoi dire a me, non ho capito, i trans, con tante belle ragazze che stanno, ma i trans, ragazze schiave, oh, Crucia, io ho una puttana che non ride, non scherza, non gioca e non balla in mezzo alla strada, io non l'ho mai vista, Crucia. No, stanno adesso tutti questo... a ballare in mezzo alla strada. Ma adesso non è che ci sono tutte puttane che ballano in mezzo alla strada. Adesso, sì, adesso sinceramente... Da Firenze in giù ballano tutte, ballano. Ma non è vero. Comunque questo qui poverino è una persona schifosa proprio. Perché è schifoso, scusa? Perché dice le prostitute che ballano, dai, come fossero felici. È una persona schifosa. Ma il culo rotto, parla ancora, parla, com'è? Ma perché il culo rotto? Ma questo, scusa? Che c'è il culo rotto? L'altro giorno stavo dicendo culo chiacchierato, culo. Allora, 20 e 14, due reati commessi. Quali sono i reati? Culo chiacchierato sono due reati, diffamazione. Io ho sentito in trasmissione culo chiacchierato a Padova, non lo so, culi no. Sono tre reati commessi tra le 20 e 13 e le 20 e 14, è facile da trovare, la trasmissione del venerdì, 20 e 13 e 20 e 14. Ma ci arriva adesso, fammelo square, vabbè. Vai, fammi chiudere che devo lavorare, ciao, ciao. Ma com'è, che fai di lavoro, Salvatore, che fai? Fammi chiudere che devo che lavorare. Che fai di lavoro, che fai? Porto da mangiare i cani in mezzo alla strada. Ma che vuol dire? Non è un lavoro, porto da mangiare i cani in mezzo alla strada. Cioè, che fai? Cioè... Ah, fangulo, va, ciao, ciao. Ciao, ciao. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La zanzara. Oggi do la mano a uno e mi domanda: hai pisciato? Ti sei lavato le mani? Ho detto: boh, non mi ricordo. Questo figlio mi guarda e fa: ma tu sei sicuramente un ascoltatore della zanzara. Ma come cazzo avrà fatto a indovinare? Ho appena fatto un colloquio all'Enel e non mi hanno preso. Io però gli ho pisciato nel lavandino. Stai zitto Parenzo Ciucciacassi, siamo al top. Comunque oggi sono andato a pisciare e ho dato la mano all'estetista senza lavarmi le mani. Siamo al top, cazzo, che goduria. Ieri sera ore 11, via Salaria, provenienza Rieti in direzione Roma. Ornaro, l'unico rettilineo della Salaria in discesa. A un certo punto dal lunotto della mia macchina vedo una grande luce, sembrava un UFO. Realizzo che questi ladri bastardi hanno messo un autovelox proprio lì, all'uscita di una curva, e io manco correvo e capisco che mi hanno fatto la foto e la multa. Mi fermo, faccio una prudente retromarcia, scendo dalla macchina, scavalco il guardrail e ho pisciato sul loro autovelox. Siamo non al top, siamo oltre il top. Che pisciata! Tornato a parlare il governatore del mondo, caro Parenzo, lo sai che c'è questa diatriba con De Magistris, no? Parlando lì. Sì, perfettamente, del famoso fuori onda, sì. Il famoso fuori onda intercettato da un'agenzia di Napoli dove il buon De Luca avrebbe riferito... Dice in pratica che questo ore là che è, sì, dice delle cose terribili su De Magistris, ma chi se ne frega di queste cose qua. La cosa più bella di De Luca è il suo sfogo, come al solito, all'Ira TV sui 5 Stelle, ormai un must assoluto. Ma possibile che nessuno in Italia abbia, come dire, la prontezza per dire: amico mio, ma chi vuoi prendere in giro? Sto parlando di un webmaster che si vuole candidare a fare il presidente del Consiglio. Con questo curriculum, l'ho detto, se voi gli domandate, no, dimmi il tuo curriculum, titolo di studi, sterminatore di congiuntivi. Che lavoro hai fatto? Niente. Che vuoi fare da grande? Presidente del Consiglio. Ma a lei pare un paese normale quello nel quale si può tollerare una cosa del genere? Infine, io credo che dobbiamo adottare la linea cialtroneria zero di fronte ad atti di vera e propria truffa politica. Questi sono dei truffatori politici. Come è possibile fare una finta battaglia contro i vitalizi, che non ci sono, quando un noto esponente delle 5 Stelle, un noto webmaster, guadagna 13.000 euro netti al mese? Uno, 100.000 euro di stanziamento per cambiare i fontanini della regione Campania, per mettere la ciotola per far bere i cani. Totalmente sbagliato, anche perché i cani sanno bere. L'acqua la bevono. C'è qualche dirigente delle 5 Stelle, qualche webmaster che beve con il biberone, se no si sbrodola. Una idiozia totale. De Luca, numero uno. Salvo da Palermo, vai Salvo. Aspetta. Sì, buonasera, Cruciani. Dimmi. Ma chi sei? Il solito grillino di Palermo? No, non sei il solito. Sì, no. sì. Ma no, sei il solito che ci insulta. Il primo coglione di il primo coglione della radio sei tu. Sì. Perché ti spiego subito. È arrivato. Ce l'ha con te. Sono arrivato. Il numero uno è per te, De Luca. Sì, De Luca, sì, numero uno, sì. Per sì, me è numero uno, assolutamente. Allora, io lo vorrei governatore. Io lo vorrei governatore del mondo, dell'Italia. Ascolta. Sì. Tu lo vorresti. Che sarei io testa di? Io testa di Di Maio, che ti rompe prima il culo a te e poi a tutti gli altri. Ma qua, perché mi dovrebbe rompere il culo Di Maio? Scusa, spiega. Tu sei un fango. Quando vai in trasmissione non fai altro fango. Che tirare. Sì, fango, sai so cosa significa. Sì, lo so che significa, lo so che significa. Allora, sì, fango. Lo devi dire di più, con più forza. Sì, fango. E perché saremmo fango? Spiegami, perché io e Parenzo sei io il primo fango? No, io sto parlando con te, non con Parenzo. Vabbè, parla con me, avanti, Salvo. Con te, sì, perché quando io ti vedo in trasmissione, ti seguo parecchie. Buonasera, signor Salvo. Buonasera, signor ascoltatore. Sì, buonasera. Allora, quando io vado e ti seguo in trasmissione, sì, sei tutto paraculo. Sì. Sei un paraculo di quello a mille per mille. Sì. Perché non fai altro che parlare male del Movimento 5 Stelle. Ma veramente non me ne inculo proprio. Cioè, veramente, proprio, se c'è una cosa di cui non mi interessa, sono tutte queste diatribe qui dei 5 Stelle. Perché non me ne frega il primo a te ti brucia, che se sale il Movimento 5 Stelle, anche a te, come mi hanno levato i diritti acquisiti a me, te li devono togliere a te. A me perché? Che c'entro io? Scusa. Perché sei il primo paraculo d'Italia. Ma cosa c'entra? Ma che ne frega di 5 Stelle cosa faccio io o cosa non faccio? Spiegami. Come? Ne parli male dalla mattina fino alla sera, tu hai cambiato alla trasmissione tutto grandioso. Fai un spaccone, gioco, capito? Ma non ho capito perché volete prendere anche il Sole 24 Ore adesso? Volete prendervi pure il Sole 24 Ore dopo l'Italia? Non ti preoccupare, ci prenderemo tutto, pure il Sole 24 Ore. Sì, ve lo volete. Però dovete tirare fuori per prenderlo. Con la Russia, siamo. Ma chi? A me non me ne frega nulla di queste robe qua. Ma vi dovete. Qui lì ci vogliono i piccioli, però, per prendere il Sole 24 Ore. Non ti preoccupare, non c'è bisogno che ne ci vanno i piccioli. Dovete tirare fuori i piccioli per comprare il Sole 24 Ore, capito? Paraculo De Luca, tu. Ma De Luca, lo sai che devi fare tu? Devi pulire le scarpe a De Luca, li devi lucidare le scarpe. Tu c'ha il caro culo. No, io no, perché non lo conosco. Non lo conosco. No. Li devi lucidare le scarpe a De Luca, tu. Li devi lucidare. Lucidali le scarpe, dai, lucidali. No, ma tu non gli arrivi nemmeno i calzini di De Luca, non arrivi nemmeno ai calzini. De Luca nemmeno ai calzini ci arrivi. Spendere, non ha neanche le palle di affrontarlo a De Maio, capito? A De Maio. Ma perché? Non ho, ma qual è il problema? Dimmi la verità, Salvo, che tu sei una persona, mi sembra un po' disturbata, però forse ogni tanto qualcosa di ragionevole la riesci a dire. Allora, Salvo, tu dovessi scegliere da chi farti governare, no? Da chi farti dirigere, sceglieresti De Luca o Di Maio? Dimmi la verità. Io? Sì, tu. De Luca lo scarterei completamente. Completamente. Un indegno. Ma puro. Che devi, al patibolo devi finire, devi ingalera, ah, De Luca. Un mafioso. Diciamo così, un mafioso è corrotto. Okay. 2027. Che cosa è successo? È stato commesso un reato. Quale reato è stato commesso? Dov'è? Ma il reato si è attribuito al presidente della regione Campania. Cioè, Salvo che dice: esatto. Salvo da Palermo, De Luca è un mafioso. Salvo un corrotto. Da Palermo verrà denunziato dalla regione Campania. Ma non è vero, ma non è, se, che sei pure l'avvocato di De Luca? Che sei l'avvocato di De Luca? Sono diventato anche con Trucco, siamo gli avvocati di De Luca. Vabbè, Salvo, che vuoi ancora? Che vuoi ancora? Niente, non c'è un cazzo da fare. Ma ha una vita sua. Portate avanti a sud da Luca, portate avanti. Ma ce l'hai una vita tua personale autonoma? Renzi. Sì, mi hanno fottuto i soldi, capito? Ti hanno fottuto i soldi, si capisce che sei frustrato, infatti, si capisce, purtroppo lo capisci, sei frustrato. Hai capito? Mi hanno fottuto i soldi. Ti hanno fottuto i soldi. Ma non lo... del governo. Ma chi ti ha fottuto i soldi? Ma chi ha fottuto i soldi? Chi? Come chi? Chi ti ha fottuto? Fornero, ma perché? Che soldi ti hanno fottuto? Come? Sei disoccupato tu? Che cosa sono io? Sei disoccupato? Sono un agente di polizia. Ero un agente di polizia. Vabbè, amico mio, ma mi hanno fottuto. Perché? Per il governo. Ma perché ti hanno cacciato dalla polizia? Perché ti hanno cacciato dalla polizia? No, me ne sono andato io perché mi sono rotto. Mi sa che ti hanno cacciato la polizia. No, me ne sono rotto i coglioni. No, ma secondo me ti hanno cacciato per disturbi mentali. I diritti acquisiti. Ti hanno cacciato per indegnità, dell'ordine. Ti hanno cacciato per indegnità, secondo me. No, indegnità no, non ti preoccupare, ma sono stato più furbo di loro. Ti hanno cacciato, capito? Perché secondo me hai fatto qualche guaio, è sicuro? No, stai tranquillo, io sono pensionato tra l'altro. Ma non sembra, se c'è una voce, secondo me sei stato cacciato per indegnità mentale, no, per turbe, per problemi, avrei sparato a cazzo di cane. Perché quando ho sentito che mi hanno fottuto completamente. Tutti fottuti sono l'Italia, tutti, sì, il governo. Perché guarda, il mio lavoro... Tu sei come, perché non vai ogni tanto dal pubblico dalla vostra parte o quinta colonna? Dovresti andare là, bastardi, figli bottana, pezzi in merda, fango. Perché non vai là tra il pubblico dalla vostra parte? Perché vai lì. La signorina fango. Fornero, che ha fatto la Fornero? Fornero? Che deve essere impiccata? Diritti acquisiti ce l'hanno tolto. Vabbè. Ma che deve essere? Tolgo, ma che deve essere impiccata la Fornero? Sì, tranquillo. Tranquillo. Chi deve essere a te impiccata? Perché dimmi una cosa, allora, per te onesto che io dopo. Ma non lo so, ma non mi interessa. Non mi interessa. Non mi interessa. Quello che hai passato tu non mi interessa. Allora sei stronzo, scusami. Perché sono stronzo, sì, è vero, ma non posso adesso occuparmi. Ho giurato alla patria. È pazzesco, perché ti hanno cacciato? Perché ti hanno mandato via dalla polizia? No, io me ne sono andato. Sì, baby pensionato pure. Sei un baby pensionato? Sì. Secondo bravo, me sei bravo. Baby pensionato. Bravo. Vuoi dire che sono baby pensionato? Ciao, a me i diritti acquisiti me l'hanno tolto. Ma non lo so, secondo me sei un baby pensionato. Secondo me sei un baby pensionato. Ciao, salvo. No, non sono un baby pensionato. Ciao. Luciani! Soca! Tu sei il più grande curatore del mondo. Sei il più grande curatore del mondo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. È la mente il segreto del successo. Lucida la tua mente con Acuti il Lavoro. La Zanzara. Luciani, mon ami, une bise de Genève, qui le puttane pagano tasse, le scopi nei locali puliti e puoi pure comprare erba dal tabaccaio, siamo al top. Ragazzi scusate, allora, trovo un imprenditore, entro in casa, corco di cazzotti il babbo, corco di cazzotti la figliola, corco di cazzotti la moglie, gli rubo l'orologio, mi fanno un contratto di lavoro. Se li stupro, tredicesima, quattordicesima, mi fate sapere qualcosa, grazie. Boh, mi sono appena guardato, scaricato da internet uno dei tanti filmati di Omar Galanti, ma sinceramente non mi sembra proprio un diametro di 7 centimetri. Secondo me, assolutamente no. Quanto siamo a diametro? C'è un calcolo? Sì, lo saprai sicuramente. 7 di diametro e lunghezza? 20, 24. 24 per 7, diciamo, questa è la misura del signor Omar Galante. L'anale non fa male quando è duro. Ah, addirittura al contrario, se è duro il pisello non fa male l'anale. Beh, strana questa cosa. Sì, perché scivola di più. Immaginate un copertone di una macchina gonfiato a 18 atmosfere. Quando voi accelerate, cosa fa? Slitta, no? Sì. Cioè, slitta tutto andare. Una gomma molle invece cosa fa? Ha più aderenza. Quindi, immaginate il pisello che entra dentro le pareti dello spintere, vabbè, duro, adesso questo insomma scivola bene, se invece molle strappa. Perché hai deciso di fare il pornostar, me lo spieghi? Ma ero convinto di diventare ricco, dico la verità. E invece? E invece no. Ah, non si diventa ricchi col porno? Un milione di euro. Assolutamente no, oggigiorno no. Oggigiorno no, non si diventa ricchi. Hai un sogno erotico? Sì. Qual è? Trombarmi una morta. Il signor Omar Galanti, designato da Rocco Siffredi come suo successore, in realtà si è ritirato da 4 anni, ma lo stesso Siffredi ce l'aveva segnato. A me ha fatto impressione questa chiusura di Galanti, anche a te Parenzo, oggi sì, ne abbiamo parlato. La roba della morta è terribile, si chiama l'esorcista. No, più che esorcista, tu sai che c'è una cosa che si chiama necrofilia, no? Ma sì, certo. Lui l'ha detto seriamente, cioè trombarmi una morta, poi ha aggiunto così magari la risveglio, no? Però certo è un sogno erotico che per esempio io non ho, devo dire la verità, io ho tante perversioni, però quello di farmi una morta francamente no. Allora Angelo da Lecce, vai Angelo. Angelo. Sì, Giuseppe. Dimmi Angelo, dimmi. Ma che rapporto hai con la libreria? Acquista un libro per la tua salute, acquista dei libri, leggi Padre Raffaele Talmelli, psichiatra e esorcista. Ottimo, segniamo, Se no altrimenti diventi come una capra, come le persone. Ma che vuol dire, scusa, che vuol dire? Spiegami. Scusa, non puoi dire che l'esorcismo è fatto da gente che non riesce a riconoscere le malattie mentali, ma dai, ma non puoi offendere tutto. Scusami, io non ho detto nulla, io ho detto semplicemente, questo. No Angelo, assolutamente no, tu non hai sentito bene. Io ho detto semplicemente che se noi chiamiamo un esorcista, tra l'altro è un simpaticissimo prete palermitano, è molto tenero, molto simpatico, anche molto, molto disponibile, come si è sentito nella telefonata, e noi gli proponiamo un finto invasato e lui e sente che c'è Satana, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, scusami se te lo dico, no? Non è un esercista professionista. No, e poi, vabbè, che ti devo dire, è conosciuto come esorcismo, dai. L'ha vittata come hai fatto l'altro giorno sulla 7, quando ha iniziato, io non mi sento di rispettare il Santo Padre che è il capo di una città, di uno Stato, poi... Non ho detto, non ho parlato di rispetto, non hai capito un cazzo, non hai capito nulla. Dai. Aldo da Milano, mi rotti i coglioni, Aldo da Milano, dai. Pronto? Aldo, vai, dimmi. Buonasera, grazie per lo spazio. Dimmi Aldo, dimmi. Aldo. Io volevo anch'io... Sì, perché sei un prete, che sei? Sei un prete? No, hai la voce da prete, per cui... Sì. No, è la voce da prete, sai, quei preti che hanno le voci così, no? Così pacate, alla Prodi. Ci vuole pacatezza. Ci vuole tranquillità, serenità. Vai Aldo, dimmi, dai. Sì, però un po' di verbo, ti prego, sono le 20:40, non mi farà mosciare i coglioni alle 20:40, ti prego, te lo scongiuro. Parla, cerca di metterci un po' di animo, un po' di verbo, un po' di no, di... Vabbè, dai, forza. Niente, non c'è niente da fare. Non ce la faccio. Dai. Bene, quello che io volevo dire era semplicemente di dare molta importanza alla tolleranza, soprattutto nei confronti di questo prete che crede quello che fa. Sì, e dunque? Che vuoi? E poi? Perché ci vuoi parlare di tolleranza? Perché mi vuoi far dire cose brutte? Poveretto. Ma non abbiamo preso in giro nessuno, abbiamo fatto un esorcismo, un finto esorcismo, volevamo capire fino a che punto si arrivava, non c'è nulla di previsto, si è arrivati fino all'estremo, in realtà sono 40 minuti di esorcismo, amico, me l'abbiamo anche ridotto, cioè 40 minuti di esorcismo, una cosa straordinaria, una cosa radiofonicamente superba, non me ne frega niente delle considerazioni sulla tolleranza che fai tu, sinceramente non me ne frega nulla. No. Niente. Nulla, morto. È morto, sei morto. Oh! Pronto? Ma che fai? Che hai chiamato a fare? Per dire che secondo me è fuori luogo quello di prendere un prete poveretto così e prenderlo in giro. Vabbè, ciao. Giuseppe da Torino, ciao. 3 ore per dire una cosa così semplice. Vai. Giuseppe. Ma Giuseppe, dimmi Giuseppe, dimmi. Pro- Pronto, ciao. Senti, io telefono perché il signor Bortolotti. Sì. Ho sentito la sua dichiarazione l'altro giorno, sono rimasto benevolmente colpito per il suo coraggio, ma anche per la sua, posso dire, un po' ingenuità. Perché non si affronta un argomento così semplicemente? Io vorrei solo chiederle, per esempio, una volta che ce li ha in azienda questi signori, cosa potrebbe pensare la moglie e la figlia, che sono state bastonate abbastanza. Io non lo so, probabilmente saranno d'accordo con lui la moglie e la figlia, non lo so, che sì, ti devo dire, può essere. Non ho capito quale Giuseppe, potresti essere anche tu, aver indovinato anche tu la sua volontà, cioè quella di recuperare l'orologio. Io dico una cosa: questo signore Bertolotto, Borlotto, quello come si chiama, adesso non lo so, è un signore cui è stato fatta una rapina in casa con un cacciavite, e hanno picchiato la moglie e il figlio, e la moglie e la figlia. Poi a un certo punto gli hanno rubato solamente l'orologio d'oro, che è il vero motivo per cui questo signore in realtà vuole fare tutto questo cancan e recuperare l'orologio, 600 euro. Adesso dice: io sono uno che credo che l'Italia diventerà color cioccolato nei prossimi anni, ci sarà una grande invasione di emigrati, immigrati, e va tutto bene. E dice: io questi qua, una volta che pagano il loro pegno con la giustizia, li assumo. Ma ragazzi, ma questa qua è discriminazione, è una discriminazione nei confronti di chi cerca lavoro, onestamente. No, io dico che è stato ingenuo, perché le dimensioni, io sono un ex detenuto, ti preciso questo. Bene. Ne ho fatte di cotte di crude. Benvenuto detenuto. Che hai fatto, scusa, che hai fatto? Ma guarda, un cumulo giuridico di 30 anni. Ma molto più pesante. Che hai fatto? Scusa. Ma quelli ci piacciono i criminali. Sequestro di persona, associazione, vale. Questo è buono. Aspetta, scusa un attimo. Giuseppe, però adesso non puoi dire così. Cioè, non è che puoi far passare così, no, Parenzo? Uno dice: entra qui e dice: beh, sì, sai, sono stato in galera per 30 anni. Ti voglio fare un discorso. Sequestro di persona. Io ho fatto un percorso personale, e lo voglio dire, che è un percorso di avvicinamento con le vittime, ok? L'ho fatto in una certa maniera, in un certo modo. Quando poi sono andato all'atto pratico, perché una persona tra queste mi ha dato la possibilità, come quel signore che ha telefonato, di assumere, di fare, ho trovato 30.000 difficoltà. Ma questo è normale che una persona che ha fatto non so quanti anni di galera incontra difficoltà. Ma non dico dico che questi qua che hanno rapinato dentro la villa dell'imprenditore piemontese, probabilmente non gliene fotte un cazzo di lavorare a stipendiati magari a 800, 900 euro al mese o 1000 euro al mese. Sicuramente vorranno continuare a fare i ladri. Vorranno continuare. Si consegnano alla giustizia. Certo, non è che si consegnano alla giustizia nella prospettiva di diventare impiegati del rapinato. Dai, su, ragazzi. Io dicevo solo che un esibizionismo di questo Bertolotto è stato ingenuo perché queste dimensioni di riavvicinamento tra vittime e autori devono seguire cose totalmente diverse. Vabbè, Giuseppe, però al di là di questo, io per che cosa sei stato condannato tu? Ma io ti dico, ho avuto sequestro di persona, una rapina, se me lo vuoi dire, no, te lo sto dicendo, lesioni, porta d'armi, non ho mai fatto spazio associazione a delinquere. L'associazione a delinquere mafioso, normale e mafiosa. Normale e mafioso, ma a che gruppo appartenevi? Rapinatori oppure Ndrangheta, da Camorra? È una piccola banda che non c'è più, Giostrai, ok? Giusto, ma sei rom? Non sono rom, sono un gaggio, come si dice. Sei? Un gaggè. Hai vissuto nell'illegalità per quanti anni? Ma diciamo 10 anni, poi se metti anche la detenzione perché frequenti solo. Quanto sei stato in galera? Fatti 22 e mezzo. 22 anni e mezzo in galera. Poi ho avuto i benefici di legge come tutti e poi ho fatto. Ma le mie. Ti è rimasto qualche soldo delle rapine o no? Ma sai, dopo 22 anni ne spendi anche. Adesso faccio un lavoro tutto divertente, lavoro con le escort, però è un altro discorso. Beh, questo è buono, questo è molto buono. Scusami, le escort, che vuol dire lavori con le escort? C'è un piccolo bordello illegale? No, niente di illegale, tutto legalissimo. Non ho fatto più illegalità da 30 anni, è preciso questo. Lavoravo, ho avuto un incidente bruttissimo, sono pensionato per inabilità lavorativa, per cui... Vabbè, ma dove lavori? Perché hai a che fare con le escort? Che fai, in Svizzera, in Austria? No, gli faccio i servizi fotografici da mettere nei siti, gli porti preservativi, tutte queste cose qua. Beh, ma questo qua è eccezionale, scusi, è un lavoro moderno, è un lavoro contemporaneo. Un lavoro contemporaneo, mi dà da raddrizzare il bilancio. Parenzo, ma c'è da imparare, i tuoi figli potrebbero fare nel futuro un lavoro del genere. I miei figli mi auguro dei lavori diversi, diciamo, però. Ma perché? Carità. Perché adesso devi trattare da cosa indegna il lavoro che fa Giuseppe da Torino? Che dice? No, che... ma indegno assolutamente no. Ma mi auguro che, ad esempio, mia figlia grande. Vabbè, quello sto parlando di figli maschi, perché Giuseppe o anche tua figlia grande. No, mia figlia grande penso farà il magistrato. Un lavoro di supporto all'escort. È un lavoro difficilissimo. Un lavoro di supporto all'escort, ecco, Giuseppe. E i miei due grandi, uno farà probabilmente il notaio. Ma adesso sono l'altro. Ma non è vero, ma si sta inventando tutto. Ma c'hanno due anni, tre e anni. E l'altro farà il direttore, quello più piccolo farà il direttore del Sole 24 Ore. Questo è un mondo, quello italiano, dell'escort, sì. È un mondo fantastico. Per quanto per quelle che lavorano. Però Giuseppe, questo è interessante. Nei prossimi giorni ti contatterò personalmente. Scusami, prenderò il tuo numero di telefono, ti contatterò perché magari qualcuno ha voglia di parlare delle sue esperienze, qualche escort che conosci. Magari riusciamo a trovare un'intesa. Sì. Ciao, ti abbraccio fortissimo. Sì. Ti abbraccio forte. Ciao, ciao. Ciao. Allora, ragazzi. Carlo Alvino. Anzi, no, che Carlo Alvino? No, sì, Paolo Del Genio. Che Carlo Alvino? Paolo Del Genio. Del Genio, poi genio. Insomma. Chi è? Genio. Paolo Del Genio è un conduttore radiofonico, per carità, napoletano, anche bravino. Ma insomma, napoletano, conduttore radiofonico napoletano, come direi, conduttore radiofonico, per carità, con tutto il rispetto. Milanese, torinese, cioè locale, importante, locale. Paolo Del Genio. Mi rompe i coglioni a me, dice che devo essere cancellato dall'ordine dei giornalisti, non so, sospesa la trasmissione. Sospesa, dice? Ma non si capisce perché poi. No, cioè. Ma ha ragione, però. Ma sospesa. Cosa è successo oggi durante la trasmissione? Ma sospesa. Cosa è successo oggi durante la trasmissione di questo Del Genio? Senti. Senti chi è intervenuto in trasmissione, senti. Alessio da Udine, ciao Alessio. Sì, buonasera. Buonasera a te. Io le devo dare subito un dispiacere perché sono juventino. Va benissimo. Ecco, va benissimo. Io non capisco sinceramente tutto il veleno che avete proprio in questi ultimi tempi nei nostri confronti. Non è questione di veleno, è questione di una storia lunga da parte della Juventus, che conosciamo tutti e conosce anche lei, è una storia di tanti favori arbitrali ai danni del Napoli e di tante altre squadre. Che ma questo è il solito discorso, non è vero. Del Genio, ma non è vero questo. Ma secondo me i favori si bilanciano. Secondo me, chiedo scusa, signor Alessio, con grande correttezza, questa è una delle più grandi sciocchezze che ho sentito mai dire io. Non mi creda, è una delle sciocchezze più grandi. Mi scusi, ma vuole dire che quest'anno la Juventus non merita di vincere lo scudetto? No, merita di vincere lo scudetto perché è l'organico più forte. Sarebbe meglio anche per voi tifosi della Juventus se non ci fossero partite come Juventus-Inter, come Juventus-Milan, e se non ci fossero tutte le proteste di Bonucci e degli altri calciatori mai redarguiti e mai ammoniti dagli arbitri e via discorrendo. Potrei andare avanti per un paio d'ore. Questa la solita lagna, il solito piagnisteo, ma d'altra parte siamo abituati, detto anche in modo pacato, senza grandi urla, eccetera. Poi a un certo punto questo ascoltatore Parenzo da Udine, il signor Alessio da Udine, non so se ti dice qualcosa il signor Alessio da Udine. Alessio da Udine, no. No, non ti dice una cosa, senti bene la voce, Alessio da Udine. Ecco, io sono un ascoltatore dalla Zanzara di Cruciani. Sì. Ecco, e io adoro Cruciani, lo trovo un personaggio geniale. Benissimo. Vedo però che lei non sta molto simpatico. La ringrazio, grazie per il suo intervento. No, però io su questo argomento non ci torno. Grazie, signora Alessio. Io su questo argomento non ci torno perché non posso fare il gioco di chi vive facendo trasmissioni che sono strutturate sulla polemica e sul litigio con colleghi opinionisti, politici, giornalisti. Cioè, si organizzano trasmissioni per litigare. Io qualche volta mi trovo coinvolto, ma mi creda, io non organizzo mai nulla per litigare e di conseguenza non partecipo a questo tipo di modo di fare giornalismo. Un'idea un po' più nobile, chiedo scusa per la presunzione, del giornalismo. E il mio è un giornalismo basato quasi esclusivamente, tranne quando non mi tirano per i capelli dentro a qualche polemica, ma su valutazioni tecnico-tattiche. Questo fa sì che abbiamo un pubblico di qualità e facciamo delle belle trasmissioni quotidianamente che invito anche lei ad ascoltare. Grazie. Abbiamo capito che questo signore pensa di essere più civile, pensa di essere, di avere un pubblico più come dire, più professionale, di avere un pubblico più educato, più preparato, e noi siamo dei poveri cialtroni che facciamo polemica. Ma chi cazzo è sto del genio? Ma chi cazzo lo conosce? Bah. Per carità, poi va benissimo, io ho grande stima di tantissimi speaker radiofonici locali, ma uno che si erge a professore mentre noi saremmo chissà che cosa perché facciamo polemica, amico mio. Ma dai. Dai, Paolo da Piacenza, dai, Paolo da Piacenza. Oh, Paolo. Pronto, Giuseppe. Dimmi, ciao, Paolo, ragazzi. Dimmi. Ciao, ciao, ciao. Stasera, secondo me, siete andati, avete pisciato fuori dal vaso. Ma perché? Con che cosa? Abbi pazienza, dai, ma quel povero vecchio frate. E allora qual è il problema? Non ho capito. Il problema è che... Qual è il problema? Qual è il tuo problema? Quello che ha recitato era una normale preghiera della Chiesa. L'attore... Ah, normale, in latino. Normale. In latino. Esorcismo latino, con latino. Ma no, ma va benissimo, è normale. Ma non è l'esorcismo con latino, Giuseppe. Ma qual è il tuo problema? Credi nel diavolo? Credi nell'esistenza del diavolo? No, Giuseppe, credi o no nell'esistenza del diavolo? Sono due piani separati. Asmodeo! Asmodeo! Asmodeo! No, non è quello, no. Ma io ho paura quando lo invoco. Ti saluto, ciao, sì. Devo chiudere, ciao. Lo so, porca. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siete morti, siete morti! Stai zitto che non sei nessuno! Radio 24. Libera la voglia di fare.